Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ed eccoci di nuovo qua su Medium, il podcast italiano su Netrunner. La puntata di oggi sarà incentrata solamente sul runner, perché ho deciso, a seguito dei discorsi che abbiamo fatto su netrunner.it, il forum, di fare puntate separate, una per il runner e una per la corp. Innanzitutto devo scusarmi per la mia voce, sono un po' raffreddato. Il problema è che con il fatto che io guido praticamente per 6 ore al giorno, più o meno, visto che faccio l'agente di commercio, e sto sempre con l'aria condizionata. Ho capito che potrei aprire i finestrini, però innanzitutto entra dentro praticamente il vento caldo, e in secondo luogo il problema è questo, che se devo fare le telefonate mentre guido e c'è la bora che imperversa perché i miei finestrini sono giù, non si capisce nulla. Quindi via, sono scusato del fatto che uso aria condizionata e poi chiaramente mi viene il mal di gola e il raffreddore a luglio. Detto questo, passiamo subito alla rubrica The Personal Workshop, in cui parleremo di deck building. Anzi, direi che parleremo del primo approccio che le persone hanno al deck building. The Personal Workshop. Oggi vi parlo di quello che per me significa il deck building. Diciamo che all'inizio ti avvicini al deck building con un approccio ingenuo. L'idea è che tu, cioè perlomeno quello che succede a me, è penso di essere l'unico ad avere la capacità di creare dei mazzi, perché sono l'unico che ha il coraggio di fare dei mazzi estremi o particolarmente incentrati su un'unica meccanica. Il fatto è questo, che esistendo internet dai un'occhiata ai mazzi che ci sono su internet e non ti sembrano un granché, soprattutto quelli che vincono. Dicono vabbè sì, c'è un po' di questo, un po' di quello, ma non ti danno quella sensazione di dire ah, è talmente chiara qual è la strategia di questo mazzo che è veramente eccezionale ed elegante, in virtù del fatto che si focalizza su una cosa e la fa talmente bene che non riesci a contrastarla. Quindi ecco, l'idea con cui sono partito io quando ho fatto deck building per la prima volta, in realtà io sto parlando piuttosto della mia esperienza di Magic, quando giocavo a Magic ormai nel 2006 più o meno, però in effetti l'ho ritrovata anche su Netrunner. L'idea è questa, che tu vedi una combinazione, una combo, come si chiama, e dici cavolo, questa combo se riesco a tirarla fuori praticamente la partita è fatta. Il problema è che quella combo ha delle condizioni particolari che non sempre succedono e che non sempre sei tu ad avere il controllo sul fatto che accadano oppure no. L'avversario magari deve fare una serie di azioni che tu non sei sicuro se farà. Quindi la storia è più o meno questa: costruisci il mazzo, dici cavolo, questo qui in teoria funziona, il mazzo perfetto, la combo funziona, hai modo di verificarlo magari in un test senza un avversario, quindi tiri fuori le carte e ti fai un'immagine della partita, e in quel momento capisci che il mazzo effettivamente potrebbe funzionare perché la teoria va. Poi ti scontri contro la dura realtà. Quando poi giochi realmente nella partita reale, non sempre le carte escono fuori come dici tu e non sempre quella combo succede. Ora, se il tuo mazzo di per sé è un mazzo fatto bene e in più a quella combo, va bene. Se invece il tuo mazzo è pensato solo per quella combo, probabilmente perderà inesorabilmente. Allora, dopo aver perso praticamente tutte le partite, averne vinta una solamente per pietà dell'avversario, cominci a pensare cavolo, ma mi fai vedere invece come mai quel mazzo che ho visto su internet funziona bene e è riuscito a raggiungere il podio. Il problema è anche qui si ritrova, perché fai il mazzo identico al campione super mega americano che ha combattuto contro 100.000 runner e 100.000 corp e non è mai stato battuto da nessuno, lo giochi tu e sembra un altro mazzo. Dici ma com'è possibile che quel mazzo lì abbia vinto e io invece perdo sempre? Inizi a sospettare che forse non è solamente il mazzo che fa la vittoria o meno di una partita, perché il mazzo giocato identico, giocato da due persone differenti, porta a risultati differenti. Quindi oltre poi a guardare il mazzo, scorri oltre e guardi anche come questa persona lo ha giocato, quali sono le strategie che ha utilizzato, quali sono i ragionamenti che sottendono a quelle strategie, anche quali sono le scelte sul campo che lui ha fatto e i ragionamenti che ha fatto sull'avversario, quindi dicendo: allora lui ha giocato in quella maniera là, allora io questa carta qui, che di solito gioco magari sul server remoto, l'ho messa su R&D perché ho visto che lui ha giocato quel tipo di carte lì, oppure come si gioca questo mazzo a seconda di chi incontri. Se incontro MBN giocherò in una certa maniera, se incontro Wayland giocherò in un'altra maniera. Quindi ecco, nel deck building dobbiamo includere non solo la carta forte. Quando vediamo un mazzo avversario non ci interessa solamente qual è la distribuzione e quali carte lui ha scelto da mettere, perché tutti siamo in grado di capire quali sono le carte forti e quali no. Il problema è che molto spesso un mazzo è vincente perché viene giocato da un giocatore vincente, che non vuol dire che lui è più intelligente di te, semplicemente che lui ha fatto lo studio in più rispetto a te, ha probabilmente più partite rispetto a te alle spalle e ha studiato di più. Quindi tutto quello che devi fare è semplicemente capire quali sono le strategie sottese al tuo mazzo, perché ha fatto determinate scelte, e soprattutto prepararti per giocare quattro partite differenti a seconda delle quattro corpo che vai ad incontrare. Quindi attenzione, non esageriamo troppo nel mitizzare il deck building, non spendiamo troppo, come faccio io in realtà, poi nel creare mazzi strani, mazzi strambi da provare su Octagon, perché probabilmente il mazzo migliore che potrai creare non riuscirai a valorizzarlo se non lo giochi almeno 10, 15, 30 partite. Quindi non bollare un mazzo subito perché non ti gira i primi momenti, magari provalo un po' di più se proprio credi che sia la strategia giusta, ma fai attenzione perché potresti stare perdendo tempo in virtù del fatto che qualcun altro prima di te ha già provato quei mazzi, li ha già selezionati, e quindi per vincere a Netrunner o comunque per presentarsi in un torneo e non arrivare proprio ultimo, bisogna riuscire a capire che non sei l'unico depositario della conoscenza, anzi salire sulle spalle dei giganti e arrivare alla vittoria. Passiamo adesso alla rubrica Gin, la carta del giorno. Gin, the card of the day. La carta del giorno è Modded. Volevo chiamare questa rubrica oggi Ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti amo, perché Modded è una carta di quelle che inizialmente dici: wow, a costo zero ho un risparmio di 3 per installare programmi hardware. Poi cominci a giocarla e dici: ah cavolo, però posso giocarci solamente dell'hardware, non posso giocare gli eventi, non è proprio come avere 3 soldi a costo zero. I 3 soldi me li posso tenere, invece subito dopo ci devo giocare una carta. Quindi Modded sì, ti dice: bene, ti faccio risparmiare un click, perché fondamentalmente tu fai 2 cose: ottieni 3 soldi e installi anche un oggetto, quindi che può essere un hardware o un programma. Ma attenzione, ti faccio risparmiare questo click solo a patto che tu vincoli questi soldi a spenderli subito e a usarli solamente per hardware e programmi. Quindi Modded va in tutti i mazzi? No, se siamo di fronte a un mazzo che gioca pochi programmi, poco hardware e tantissimi eventi, Modded sicuramente non verrà giocato, perché quel click che risparmi probabilmente lo perdi in virtù del fatto che sei vincolato a giocarlo solamente in determinati momenti. Quindi quei 3 soldi li avresti voluti piuttosto avere da un easy mark. È una carta scrausa per questo motivo? Assolutamente no, è una carta condizionale. Se stiamo giocando un mazzo che è pieno di hardware, come molti dei mazzi shader lo sono, o se è un mazzo pieno di programmi, come per esempio un mazzo come quello che si potrà creare con The Professor, nella nuova carta che vedrà la luce con Creation and Control, sicuramente modded sarà un elemento centrale. Attenzione, se state giocando con Kate e avete programmi a costo basso, hardware a costo basso, forse modded non è proprio la carta che state cercando, perché in combinazione con lo sconto che Kate ti mette a disposizione, non sempre sarete in grado di massimizzare lo sconto ricevuto da modded. Una piccola considerazione in più, chiaramente banale per chi gioca, però andava detta. Passiamo adesso alla rubrica Quality Time, che vi parlerà delle nuove uscite. Quality Time, fresh new cards for your decks. Parliamo ancora di Shapers. Questa puntata direi che l'ho dedicata un po' tutta agli Shaper. Parliamo di Riel Kit Peddler, ovvero una nuova identità Shaper che arriverà con Creation and Control. Ho deciso di dedicare anche questa puntata ad un'identità perché effettivamente la Fantasy Flight mi ha spiazzato molto. Con l'uscita di Creation and Control escono, mi pare, se non sbaglio, tre nuove identità: il professore, il ragazzo che pesca le carte quando installi qualcosa dal tuo hip, e lei, Riel Kit Peddler, la prima che è stata rivelata come nuova identità, e onestamente delle tre direi che è anche la più forte. Allora, innanzitutto capiamo che cosa fa questa ragazza. Il primo ice che Riel Kit Peddler incontra nel suo turno è considerato un code gate. Ora facciamo un po' di considerazioni su questa abilità, poi dopo andiamo a parlare anche di cosa vuol dire avere meno di influenza e quant'altro. Se tutte le volte che inizia il tuo turno, la tua prima run, sai che a prescindere da chi incontrerai, avrai modo di breccare quell'ice. Ora, questa a me mi sembra un'abilità veramente sgravata, ed è molto in linea anche con gli Shaper. I Shaper non sono super aggressivi, non fanno 10.000 run ogni turno, ne fanno una, fanno quella giusta e poi portano a casa il risultato nel tempo, costruendo un late game molto solido, anche in virtù magari della presenza di Magnum Opus. Ora, il limite di questa ragazza è che non ha nessun'altra forma di abilità sotto forma né di memoria né di link, in più ha un limite di carte di influenza che può giocare all'interno del suo mazzo. 10 punti influenza da giocare all'interno del mazzo sono pochissimi, sono veramente finiscono in un attimo, rispetto a 15 c'è un abisso tra di loro. Direi che siamo di fronte a uno di quei mazzi un po' radicali che giocano probabilmente tre Yogg o Yogg e tanti Fetcher, tante carte che ti vanno a cercare Yogg e te lo mettono in gioco. Fortunatamente Shaper ne è piena, perché ha test run e avrà anche self modifying code in futuro, e chiaramente si tratta di andare a creare subito un rig con i code gate e andare pian pianino poi verso il late game. Ora, io in un mazzo come questo vedo molto facilmente anche Tinker, visto che se sto giocando parecchi code gate breakers, plausibilmente Guardian Blade e Yogg, voglio che anche altri ice si trasformino in Codegate, e magari qualche trick particolare che non sappiamo ancora, ma che vedremo su Creation and Control. Sicuramente è il primo mazzo che farò appena ricevo Creation and Control, lo farò. Passiamo adesso quindi alla rubrica sul metagame. Sure Gamble, the meta, unveiled. Oggi parliamo del fratello minore di Noise, ovvero Wizard. I mazzi che ho visto girare sulla rete, che includono l'identità Wizard, non mi hanno mai convinto appieno, ma non perché Wizard non sia forte e nemmeno perché quei mazzi non fossero particolarmente interessanti, semplicemente perché è inevitabile fare il confronto, cioè quando hai Noise, che probabilmente è l'abilità più forte di tutte le identità che sono uscite finora, a confronto è normale che dici: ok, sì, Wizard, saresti stato interessante se non fosse esistito Noise, però siccome Noise esiste, caro Wizard, ti saluto a favore di un mazzo che è veramente insensato per quanto riguarda la sinergia fra il potere dell'identità e le carte che poi questa identità va a utilizzare. Ricordiamoci che Noise è l'unico fra le varie identità a non avere il limite di turno, quindi può utilizzare la sua abilità più di una volta a turno, al contrario invece di Gabriel e di Kate, che sono limitati ad utilizzare la loro abilità una volta per turno. Quindi ecco, non solo l'abilità è molto forte, ma in più è anche sgravata, nel senso che può essere utilizzata più di una volta a turno. Io, se fossi stato in Fantasy Flight, l'avrei limitato a una volta per turno. Quindi, tornando a Wizard ha un'abilità un po' sfigata a mio parere, perché è un'abilità che tu riesci a sfruttare, a massimizzare solamente a seconda di come gioca l'avversario, quindi è un'abilità molto dipendente da come è strutturato il mazzo dell'avversario. Ora, detto questo, io chiuderei a chiave Wizard e lo butterei giù nel fondo del mare, dicendo: caro Noise, utilizzerò sempre te. Il problema è che poi si introduce anche un altro elemento, un altro fattore, ovvero il metagame, ed è proprio di quello che stiamo parlando adesso. Il metagame attuale prevede la presenza di molti asset a costi di trash molto elevati e spesso giocati, quindi spesso i mazzi con questi asset prevedono di giocarli senza doverli coprire con degli ice. Quindi parlo di Pad Campaign, Marked Account, Sunset City Grid, che forse è l'unica che viene protetta. Adesso c'è il nuovo asset Dedicated Response Team, che costa esattamente 3, e Wizard ha esattamente 3 di credito ricorsivo. Quindi ecco, l'idea è questa: se non fosse per l'attuale metagame scarterei Wizard, ma l'attuale metagame me lo fa seriamente riconsiderare. Il mazzo Wizard chiaramente gioca diversamente dal mazzo Anarch, perché ha l'obiettivo non di calare più virus possibili per poter riempire l'archivio e poi andare a fare la run definitiva, ma lavora fondamentalmente con un'operazione di money denial, cioè privazione del denaro. Tutto quello che fa Wizard è semplicemente andarti a togliere, cercare di toglierti il denaro e le fonti di denaro. Altre carte che troviamo spesso, per esempio nell'HB, sono Eve Campaign e Adonis Campaign. Queste due carte, chiaramente, se le vai a distruggere appena vengono rezzate, quindi dai la possibilità alla Corp di pagare per averle, la loro distruzione potrebbe fare la differenza fra la vittoria o la sconfitta per Wizard. Un'altra cosa fondamentale della sola esistenza di Wizard come identità è che la Corp comincia a cambiare stile di gioco per adattarsi a chi ha di fronte. Quindi la Corp, quando vede Wizard, tenderà ad essere meno protezionista nei confronti dei server centrali e diluirà la sua forza anche utilizzando ICE anche per proteggere le fonti di denaro, e questo potrebbe essere un errore o comunque un motivo di sconfitta per la Corp, che magari o il giocatore che la gioca non è abituato a spalmare e quindi non continua a giocare in maniera semplice, e quindi Wizard ha la vita facile facendo money denial e quindi trashando tutti gli asset, oppure se invece spalma abbiamo un'altra risorsa che è poi Medium e R&D Interface da poter utilizzare per poter andare a trashare prima che addirittura la Corp le peschi le carte, quindi andare a trashare le fonti di denaro alla radice. Queste sono le mie considerazioni. Probabilmente c'è anche qualche aspetto tecnico di come giocarlo che andrebbe approfondito, ma magari lo facciamo in una prossima puntata. D'altronde non conto di fare una sola puntata a favore di Wizard. Per oggi è tutto, vi do appuntamento per la puntata dedicata alla Corp, che sarà la 02C, questa è la 02R. Come sempre vi chiedo di darmi dei feedback sul forum e in qualsiasi modo vogliate darmeli. Mi scuso anticipatamente per la qualità dell'audio, sempre in virtù del fatto che A, ho il raffreddore, B, ero in macchina e C, ci sono stati anche di mezzo delle mie inesperienze dal punto di vista tecnico che hanno compromesso in maniera abbastanza pesante la qualità dell'audio almeno diciamo per una buona metà della puntata, ma tant'è, è andata così. Per oggi vi saluto e faccio il jack out. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.